599. Pane di Spagna. Uova numero 6, zucchero fine in polvere, grammi 170, farina d'Ungheria o finissima, grammi 170, odore di scorza di limone a chi piace, dimenate prima i rossi d'uovo con lo zucchero, poi aggiungete la farina, asciugata al fuoco o al sole, e dopo una lavorazione di circa mezz'ora, versateci 2 cucchiaiate delle 6 chiare montate per ammorbidire il composto, indi il resto mescolando ad agio. Potreste anche montare le uova sul fuoco, come nel dolce alla napoletana numero 586. Cuocetelo al forno.